ben incanalato l'interesse per le belle storie, educa anche un po' alla volta il gusto estetico e la capacità di distinguere le qualità. Ciò rafforza il senso critico ed è un aiuto efficace per prevenire l'essenza di tono umano che a volte degenera in volgarità e mancanza di pudore. Soprattutto nelle società del mondo occidentale si è diffuso un concetto di spontaneità e di naturalezza che assai spesso è ben lontano dal decoro. Chi si abitua a comportamenti di questo tipo, indipendentemente dall'età, finisce per ridurre la propria sensibilità e abbrutire o banalizzare le proprie reazioni affettive. I genitori devono aiutare i figli a rifuggire la volgarità, anche quando non si parla di questioni direttamente sensuali. Del resto è bene ricordare che l'educazione dell'affettività non si identifica con l'educazione della sessualità. Questa è soltanto una parte del campo emotivo. È vero però che quando si riesce a creare in famiglia un clima di confidenza, è più facile per i genitori parlare ai figli della grandezza e del significato dell'amore umano e dar loro progressivamente, fin da piccoli, attraverso l'educazione dei sentimenti e delle virtù, gli strumenti per orientarsi adeguatamente in questo aspetto della vita. Un cuore a misura di Cristo. In sostanza, l'educazione delle emozioni cerca di suscitare nei figli un cuore grande, capace di amare veramente Dio e gli uomini, capace di sentire le preoccupazioni di quelli che ci circondano, saper perdonare e comprendere, sacrificarsi in unione a Gesù Cristo per tutte le anime. Un clima di serenità e di esigenza contribuisce a dare fiducia e stabilità al complesso mondo dei sentimenti. Se i figli si accorgono di essere amati incondizionatamente, se sono convinti che agendo bene fanno contenti i genitori, ma che i propri errori non li privano della loro fiducia, se li aiuta ad essere sinceri e a manifestare le emozioni, cresceranno in un clima interiore di ordine e di tranquillità, dove predominano i sentimenti positivi, comprensione, gioia, fiducia, mentre ciò che toglie la pace, collera, capricci, invidia, viene percepito come un invito a chiedere perdono, perdonare, fare un gesto di affetto. C'è bisogno di cuori innamorati, di ciò che vale per davvero, innamorati soprattutto di Dio. Nulla aiuta di più a far maturare gli affetti che mettere il cuore nel Signore e nel compimento della Sua volontà. Per questo motivo, come insegnava San Cosimaria, bisogna mettere in 7 catenacci, uno per ogni peccato capitale. Perché in ogni cuore vi sono affetti da donare soltanto a Dio e la coscienza perde la pace se li volge ad altro. L'autentica purezza dell'anima riesce a chiudere le porte a tutto ciò che indurrebbe a dare alle creature o al proprio io quello che appartiene a Cristo. Riesce a garantire che la capacità di amare e voler bene di una persona sia disciplinata, non scomposta. Perciò l'immagine dei 7 catenacci va oltre la moderazione della concupiscenza o della preoccupazione eccessiva per i beni materiali. Ci ricorda che è necessario lottare contro la vanità, tenere l'immaginazione sotto controllo, purificare la memoria, moderare l'appetito durante i pasti, essere amabili con quelli che ci irritano. Il paradosso sta nel fatto che quando si mettono lucchietti al cuore si aumenta la sua libertà di amare con tutte le sue forze inalterate. L'umanità santissima del Signore è il crogiolo nel quale è possibile purificare meglio il cuore e i suoi affetti. Insegnare ai figli sin da piccoli a dialogare con Gesù e con sua madre, con lo stesso cuore e con le manifestazioni di affetto con cui amano i loro genitori sulla terra, li aiuta a misura dell'età a scoprire la vera grandezza dei loro affetti e favorisce che il Signore penetri nelle loro anime. Un cuore che si dà a Dio per intero si possiede interamente ed è capace di donarsi completamente. Secondo questa prospettiva, il cuore diventa un simbolo di profonda ricchezza antropologica. È il centro della persona, il luogo nel quale convergono le facoltà più intime ed elevate dell'uomo e dal quale ogni persona trae le energie per operare. Un motore che deve essere educato, guidato, moderato, affinato, in modo da incanalare tutta la sua potenza nella giusta direzione. Per educare in questo modo, per poter amare e insegnare ad amare con questa forza, è necessario estirpare dalla propria vita tutto quanto è di ostacolo alla vita di Cristo in noi. L'attaccamento alla comodità, le suggestioni dell'egoismo, la tendenza alla vanagloria. Potremo trasmettere agli altri la vita di Cristo solo a condizione di riprodurla in noi stessi. Con la corrispondenza alla grazia e con la lotta personale, l'anima si divinizza e un po' alla volta il cuore diventa magnanimo, capace di dedicare i suoi sforzi migliori a cause nobili e grandi, a compiere ciò che viene percepito come volontà di Dio. In certi momenti l'uomo vecchio tenterà di riappropriarsi del suo potere perduto, ma la maturità affettiva, una maturità che in parte è indipendente dall'età, fa sì che l'uomo guardi più in là delle proprie passioni per scoprire che cosa le ha scatenate e come deve reagire. Comunque potrà sempre contare sull'aiuto che gli offrono il Signore e sua madre. Abituati a mettere il tuo povero cuore nel dolce e immacolato cuore di Maria affinché te lo purifichi da tante scorie e ti conduca al cuore sacratissimo e misericordioso di Gesù.